Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Allora, prima di presentarvi il tema del quale parleremo oggi, volevo subito anticipare ai nostri ascoltatori che naturalmente anche Salva Danaio prenderà in considerazione il tema delle conseguenze della tragedia del Costa Concordia. Lo faremo domani, abbiamo deciso di non farlo immediatamente oggi per dare tempo anche in qualche maniera, se volete, alle organizzazioni dei consumatori alle quali ci rivolgiamo più di frequente di predisporre appunto tutte le iniziative di assistenza ai consumatori e ai clienti e alle vittime anche di questa tragedia, per cui lo faremo domani. Ci sono già appunto molte iniziative che le associazioni dei consumatori stanno avviando, ce n'è già una, ve la anticipo, così se vorrete dare un'occhiata sui siti della Casa del Consumatore, che ha costituito il Comitato di Tutela dei Passeggeri della Costa Concordia. Poco fa è arrivato un comunicato stampa, lo vedo davanti a me, dell'associazione dei consumatori Conf Consumatori, che ha già elaborato una serie di istruzioni appunto per fornire assistenza alle vittime di questa tragedia. Ha tra l'altro fatto sapere che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento che sicuramente partirà. Però ecco, vi ribadisco, proprio per avere, come dire, un po' di ciccia da raccontare, da spiegare a tutti i nostri ascoltatori, noi ci dedicheremo domani a questo tema. Domani ci sarà Valeria De Rosa con voi, per cui ve lo anticipo già. E quindi siete pronti, qualora aveste anche già delle argomentazioni da affrontare con le persone che vi metteremo a disposizione domani. Peraltro parleremo anche un po' più in termini generali del tema crociera, insomma, se chiaramente questo è un tipo di viaggio che ha tutte le tutele necessarie, esattamente come tutti gli altri, il volo aereo piuttosto che un viaggio organizzato in un altro modo. Per cui, insomma, domani questo sarà il tema di Salva Danaio. Oggi invece ne abbiamo scelto un altro con la collaborazione del Sole 24 Ore, che oggi pubblica una guida su separazione e divorzio, quando un tutt'altro tema naturalmente, però anche questo molto interessante, che riguarda molte famiglie, perché quando finisce un amore, moglie e marito decidono di intraprendere strade diverse. Oltre al dolore che la scelta sicuramente comporta, ci si trova ad intraprendere un percorso a volte anche molto duro, complesso, una situazione che tanti conoscono, visto che le cifre sulle separazioni e i divorzi in Italia sono in costante crescita, circa 86.000 separazioni e 55.000 divorzi ogni anno, stando ai dati dell'Istat. A pesare sui coniugi che scelgono di separarsi non solo le difficoltà umane, si apre anche di fronte a loro un mondo fatto di complicazioni burocratiche, dispute economiche e legali, senza dimenticare, questo è il tema sul quale ci concentreremo oggi a Salva Danaio, i costi e le spese, non solo quelle giudiziarie. La fine di un matrimonio comporta lo stravolgimento del bilancio familiare, che era basato su progetti e decisioni comuni che ad un certo punto smettono di stare insieme. Cosa cambia allora? Come cambia il tenore di vita? Che influenza hanno e come possono essere determinate le diverse responsabilità nella fine dell'unione? Come gestire la situazione in cui l'ex coniuge, perché anche questo capita molto spesso, non dice la verità sul proprio reddito? Come si forma e si stabilisce l'assegno di mantenimento? Tra l'altro, proprio sui costi dell'avvio del procedimento che porta alla separazione, ci sono anche delle novità che sono state introdotte dall'ultima manovra di Ferragosto, che porta ancora la firma dell'ex ministro Tremonti. Allora, tanti temi dei quali parlare oggi. La collega del Sole 24 Ore che ha coordinato la guida del quotidiano, Franca De Ponti. Franca, ciao, bentornata. Buongiorno a tutti. E poi naturalmente abbiamo anche degli esperti, l'avvocato Carmelo Padalino del Foro di Catania, esperto di diritto di famiglia. Avvocato, buongiorno, praticamente ha curato quasi tutta la guida. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi naturalmente abbiamo bisogno anche dell'assistenza fiscale, come al solito ci viene incontro Luca De Stefani, esperto appunto per il Sole 24 Ore. Generalmente lo coinvolgiamo per le tematiche legate alle ristrutturazioni della casa, qua parliamo invece di ristrutturazioni familiari. Dottor De Stefani, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Allora, se volete intervenite, chiamateci in diretta raccontandoci, se vorrete, la vostra esperienza e soprattutto facendoci le vostre domande sulle, come dire, dinamiche economiche che cambiano quando una relazione finisce. Che cosa vi serve sapere? Chiedetecelo all'800240024 se volete intervenire in diretta. Se ci volete scrivere invece avete molte opportunità. SMS al 349 238 6666 L'indirizzo di posta che è salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook, salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata anche alla borsa, perché anche la borsa oggi è da monitorare attentamente, dopo che Standard & Poor's venerdì scorso, come nelle attese per la verità, ha deciso di esprimere e ridurre il suo giudizio, il suo rating su molte economie dell'Eurozona, in particolar modo le questioni più clamorose, la Francia che ha perso la AAA e soprattutto l'Italia, downgradata di ben due scalini in una volta sola, venerdì scorso, finisce in territorio B. La reazione della borsa oggi era molto attesa, per la verità è stata abbastanza forte nei primi minuti di contrattazione, poi in realtà la situazione si è calmata. Adesso abbiamo Parigi in ribasso dello 0,3%, Francoforte più 0,34%, la Germania non è stata toccata dalla decisione di Standard & Poor's, Londra meno 0,23%, Milano meno 0,14%. Milano era partita con un ribasso di oltre un punto, poi è arrivata a guadagnare lo 0,8% e adesso riscende. Scendono i titoli bancari ed assicurativi, molto meno dell'avvio, per esempio Unicredit, che oggi comincia la seconda settimana di aumento di capitale, adesso perde l'1,51%. In avvio perdeva più di 5 punti, il peggiore è Monte dei Paschi, meno 2, Intesa meno 1,85, Generali meno 1,66, sulla quale pesa anche la vicenda di Costa Crociere, i migliori titoli, tutti i titoli Fiat e i titoli Pirelli. Euro su dollaro a 1,2664, spread sui 500 punti base. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, quanto costa una separazione, quanto costa un divorzio? E non ci lasceremo. Portafogli ben separati, sono ben felice di aver strappato questo gran sorriso a Franca De Ponti, non te l'aspettavi, Wes e Dori Ghezzi, questa mattina. Eravamo partiti con l'idea di mettere in onda Riccardo Cocciante con la drammatica Quando finisce un amore, ma questa insomma ci è sembrata più divertente. Allora Franca, sì, adesso li possiamo anche lasciare, Wes e Dori Ghezzi, che salutiamo calorosamente naturalmente se sono all'ascolto. Franca, allora intanto facciamo il biglietto da visita come sempre della guida del Sole 24 Ore, perché al di là dell'approfondire tutti i temi economici legati alla separazione e al divorzio, soprattutto questa è un'iniziativa che mette a disposizione dei lettori un pool di esperti che rispondono direttamente alle domande appunto dei lettori del Sole. Qual è la modalità? Allora, la modalità è questa. Intanto oggi il Sole pubblica questa guida di 6 pagine che praticamente analizza punto per punto tutte le l'iter per separarsi, per divorziare, i numeri, l'affidamento dei figli, la casa, le conseguenze fiscali. A questo si affianca un dossier online che andrà in linea domani e per il quale però è già aperto un forum a cui le persone possono mandare i propri quesiti. L'indirizzo è www.ilsole24ore.com/separazione-divorzio ed è aperto fino alle 18 di oggi. E le risposte che vengono date dagli esperti andranno in parte domani, quelle ritenute insomma più interessanti o più di generale interesse, pubblicate sul quotidiano, e a seguire nella stessa sezione del sito. Quindi ognuno può porre naturalmente in termini comprensibili e concisi la propria questione. Abbiamo spacchettato le possibili richieste in alcuni punti, che sono le procedure, l'assegno al coniuge ai figli, la casa familiare, le spese straordinarie e appunto il fisco, perché comunque ci sono sempre anche delle ricadute fiscali su, per esempio, chi percepisce l'assegno, ho scoperto, perché non sapevo che questo fosse tassato poi a seconda delle modalità in cui questo si riceve. Questo è spiegato nell'ultima pagina del dossier, e comunque penso che De Stefani possa dare una... No, questo era per rimarcare il fatto che tante volte molte cose non si sanno, non si conoscono. Adesso può sembrare anche abbastanza banale il ragionamento relativo al fatto che una separazione è costosa, ma proprio poi un'attribuzione di regole chiare è molto difficile da stabilire. Ci deve pensare molto spesso il tribunale, perché soprattutto nelle situazioni più difficili ovviamente non ci si mette d'accordo, non tutte le separazioni e divorzi sono completamente consensuali, comunque una parte più lesa rispetto ad un'altra, c'è quasi sempre. Avvocato Padalino, detto un'ovvietà oppure è così? Tra l'altro colgo anche l'occasione per anticiparle già una domanda di un ascoltatore, adesso non so se riusciremo a farlo intervenire, che solleva il fatto che in Italia divorziare costa tanto, è vero, è un luogo comune o è davvero così? Ma guardi, sui costi io non mi pronuncerei perché ci sono le tariffe professionali e quindi poi dipende anche... Sì, diciamo insomma, che dipende da quello che decide anche magari Monti questa settimana, non so se si interverrà anche lì con tutto il super pacchetto di liberalizzazione, potrebbe essere anche. Per quanto riguarda invece diciamo il costo di separarsi o divorziarsi, io farei una premessa fondamentale, cioè... che non deve essere l'avvocato a stabilire quanto costa l'assegno né per il coniuge né per i figli, cioè quello che è il tenore di vita della famiglia, quelle che hanno le possibilità, dovrebbe essere riproposto dinanzi al giudice, però con il limite derivante dalla disgregazione familiare, quindi se il fatto di dover gestire due abitazioni, quindi uno va fuori di casa con nuove spese, no? Determina un abbassamento di questo tenore di vita, ecco, l'avvocato deve essere bravo a ripartire questo abbassamento su tutti, non solamente su chi va via, ma anche su chi resta e sul figlio, perché diciamo questo tenore di vita, mantenerlo così come era in costanza di matrimonio, è un obiettivo solo tendenziale e su questo la giurisprudenza, soprattutto quest'anno, si interrogherà per capire se questi assegni effettivamente sono troppo elevati. Però il principio che dovrebbe passare è quello di non chiedere una somma all'avvocato, cioè il costo dell'assegno deve venire dai coniugi. Certo, che conoscono chiaramente molto bene il tenore di vita della famiglia prima della separazione, pertanto chiaramente soprattutto per i figli deve essere ricostituita per quanto più possibile, appunto. Mi viene da ridere adesso, mi scusi avvocato, sì, no, mi dica. Per quanto riguarda i figli, io sono dell'idea che bisogna anche incentivare i coniugi, cioè bisogna metterli davanti a un prospetto che può essere banale, però dà l'idea di quelli che sono i costi durante la convivenza. E non mi riferisco solo al vitto e ai generi alimentari, ma anche pensiamo al GREST piuttosto che alla babysitter, quanto costa l'abbigliamento, se fanno sport, se è una scuola privata, cioè mettendo assieme queste voci, che ovviamente sono legate anche alle potenzialità economiche dei coniugi, vengono fuori delle somme anche significative che spesso i coniugi non si rendono conto di pagare durante la convivenza, perché è naturale. E quindi in questo modo, secondo me, anche degli importi più alti rispetto a quelli che possono essere standard, no? Possono essere maggiormente accettati, perché si dice: ma eravate voi a spendere questa somma, non è l'avvocato che ve la sta imponendo o l'altro coniuge che vuole vessare chi va via. Perfetto, grazie per queste indicazioni e tra l'altro è già arrivato il momento della nostra prima pausa. Saluto tutti gli ascoltatori che mi hanno puntualmente segnalato che Wes è morto un paio d'anni fa e io non me lo ricordavo, abbiate pazienza. Comunque l'ascoltatore che mi prende in giro e dice: immagino che non sia in ascolto, immagino anche io, magari non viveva più neanche in Italia. Non vi dico quante curiosità anche qua nei nostri studi sta suscitando l'argomento che stiamo affrontando questa mattina: quanto costa un divorzio e una separazione, cosa succede anche. Allora Roberto, guarda, la domanda la faccio subito all'avvocato Padalino, anche se tu praticamente hai 18 anni, non sei neanche sposato, non hai nessuna intenzione neanche di separarsi. Avvocato Padalino, Foro di Catania, esperto di diritto di famiglia, nostro tecnico ci chiedeva, ci sono due coniugi che vivono in un'abitazione, ammettiamo che abbiano dei figli, naturalmente la casa nella quale vivono, una volta che decidono di separarsi, ci si ricorda la casa nella quale vivono è di proprietà, ammettendo appunto del coniuge maschio, che l'aveva in proprietà ancora prima di sposarsi. Se però durante la formazione ovviamente del nucleo familiare sono nati dei ragazzi, sono nati dei figli, la casa segue i figli, mi diceva Franca De Ponti, è così, adesso io l'ho detto in maniera molto molto banale, però mi pare di ricordare che è molto tutelante per i figli che nascono da questo rapporto, giusto la situazione? La casa viene assegnata al genitore con cui i figli convivono prevalentemente, se non c'è un affidamento esclusivo. La cosa importante è che di questa, siccome la casa è di proprietà di uno dei due, è quello che va via, e allora bisogna considerare il vantaggio economico di chi resta, sia il coniuge che non deve recuperare un altro immobile, quindi il vantaggio locativo, ma anche il vantaggio per i figli di avere un'abitazione, non dover pagargli un affitto, e sia la posta passiva, cioè l'onere economico del coniuge proprietario che è costretto a uscire e a trovare una sistemazione abitativa adeguata per poter anche frequentare i figli. Quindi le ricadute economiche devono essere sempre considerate. Mm-hmm. Questo però non toglie naturalmente che poi non debbano essere prese in considerazione tutte le altre spese che hanno a che fare appunto con la vita quotidiana dei figli. Non è che poi una volta che il coniuge, che è titolare della casa, proprietario della casa, ha potuto lasciare l'abitazione appunto alla famiglia dalla quale si separa, questo non toglie appunto che si siano esauditi là tutti i suoi obblighi economici. No, diciamo che garantire la casa significa garantire una parte importante del mantenimento, perché diciamo l'abitazione fa parte del mantenimento. Poi io dicevo prima il prospetto, cioè quando si inseriscono in delle voci tutte quelle che sono le esigenze dei figli, è chiaro che si corre in questo modo, si tende a garantire un mantenimento che sia quanto più integrale possibile. Cioè se io ad esempio stabilisco che durante la convivenza il figlio frequentava il Grest, il figlio frequentava il nuoto e aveva delle spese magari mediche continuative, ecco, quelle non diventano delle cosiddette famigerate spese straordinarie, no? Su cui c'è sempre conflitto, ma diventano delle spese che si possono far rientrare nell'assegno di mantenimento. A proposito dell'assegno di mantenimento, adesso ho una domanda per Luca De Stefani, gliela faccio subito prima di cominciare a sentire i nostri ascoltatori. Ho scoperto questa mattina, dottor De Stefani, ancora buongiorno, leggendo il suo pezzo sulla guida del Sole 24 Ore, che gli assegni periodici che il coniuge, che ha avuto l'obbligo di farla appunto, versa all'altro, sono tassati a carico di chi li riceve e possono essere anche dedotti da chi li eroga. Io onestamente questo non lo sapevo, però dipende anche dalla modalità con cui questi vengono erogati, perché se c'è la modalità di erogazione una volta l'anno, in realtà non sono poi deducibili né tassati? Esattamente. In pratica gli assegni per il mantenimento, non per il mantenimento di figli ma per il coniuge, devono essere periodici. Questo dice proprio l'articolo del testo unico delle imposte dirette, e nel momento in cui stabilisce che questi assegni periodici possono essere dedotti da chi li paga e devono essere dall'altra parte tassati invece da chi li riceve. Ecco che se il pagamento invece viene effettuato in base alla sentenza di separazione, di divorzio, in maniera una tantum, quindi non periodica, questi non sono né tassati e non possono essere né dedotti. Sì. Va ricordato poi che per dedurre gli assegni dal 2007 è necessario indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme nel modello unico e nel 730. Allora, intanto noi ci stavamo distraendo perché abbiamo degli ospiti abbastanza illustri che stanno circolando qua nei nostri studi, non vi dico chi è, poi magari ve lo racconto alla fine della trasmissione. Andiamo alle domande dei nostri ascoltatori, ci stanno chiamando davvero in tanti, comincerei con Federico dalla provincia di Terni, che saluto. Federico, buona giornata, benvenuto. Buona giornata anche a voi. Ci dica tutto. Niente, volevo sapere, siccome con la separazione ho perso la mia azienda che ci avevo, perché lei quando è andata via da casa ha ritirato tutti i soldi in banca e i progetti che avevamo fatto, visto che lei lavorava, si poteva fare un certo tipo di discorso. Con la separazione non ho avuto più fondi e quindi ho dovuto lasciare la mia azienda e lasciarla al socio. Mi sono ritrovato senza lavoro e nonostante tutto ho detto con lei, perché non avevo soldi per pagare gli avvocati, ho detto con lei, guarda, non c'ho soldi per dare l'assegno familiare, lei mi ha detto, vabbè, non ti preoccupare, quando ce l'hai me li dai. Mi sono ritrovato dopo di 7-8 mesi, un anno, una serie di 13-14 mila euro tra spese di avvocato, spese sanitarie per i bimbi, spese di sport, piscine, scuola, corsi di musica, eccetera, eccetera, che io ero all'oscuro di tutto. Io volevo sapere che da che mondo in mondo, in qualsiasi famiglia, se c'è la possibilità di far frequentare sport viene deciso a entrambi. Mi sono ritrovato questa somma qua, alla fine ho dovuto lasciare la mia parte della casa, 70.000 euro, per non avere più beghe di questo genere qua. Volevo sapere se è una cosa giusta oppure no. Certo, Federico, allora aspetti lì, magari l'avvocato Padalino ha bisogno di qualche altra informazione da casa sua, da parte sua. Questo è un po' il rischio che si corre, avvocato, credo nel come dire, essere convinti del fatto che magari tra coniugi si dica sì, risolviamola in termini, come dire, completamente consensuali, senza metterci di mezzo gli avvocati, ma credo che un po' di dubbio sul comportamento reciproco bisogna sempre mantenerlo e non fidarsi mai completamente. Avvocato, che cosa diciamo a Federico? Io diffido sempre quando si dice in questo momento non hai soldi, poi me li dai, perché se c'è un provvedimento del giudice, anche provvisorio e non definitivo, quella somma decorre. Quindi poi diventa sta al coniuge chiederlo meno, ma l'altro nel momento in cui c'è la richiesta dovrà pagare. Quindi se si verifica un peggioramento delle condizioni economiche, come nel caso dell'ascoltatore che ha avuto, diciamo, una riduzione dell'attività imprenditoriale, è bene subito far presente queste circostanze al giudice e chiedere che le condizioni economiche vengano parametrate all'attualità. Quindi se non ci sono più soldi per far fare degli sbagli ai figli, deve essere il giudice a prenderne atto e a stabilirlo. Mentre invece, per quanto riguarda quelle che ho capito essere spese, diciamo, extra, no? E allora queste si può chiedere al giudice che vengano concordate, anche se non riguardano decisioni di maggiore interesse per i figli. Perché è chiaro che se io posso far fare durante il matrimonio la settimana bianca a mio figlio perché ho una certa disponibilità, ma dopo la separazione o delle spese non posso farla fare, posso porre un rifiuto all'altro genitore che parte e mi chiede il rimborso perché una spesa è ragionevole. Certo. Però bisogna sempre portare tutto davanti al giudice il prima possibile. Diciamo che ecco, ci si può rinunciare alla settimana bianca, non si può rinunciare alla spesa per l'apparecchio per i denti, che anche se è una spesa magari straordinaria, però è abbastanza prevedibile nella vita di un bambino o di una bambina, per cui ecco, bisogna anche lì tenere in considerazione tutte le caratteristiche e le tipologie delle spese che è necessario sostenere anche dopo il divorzio. Come sempre, sarà pure una banalità, i bambini non ci devono andare di mezzo, invece a volte anche da questo punto di vista ci finiscono in mezzo, e come, perché si ritrovano magari proprio a cambiare completamente le loro abitudini, il loro malgrado. Allora, volevo anche magari qui il dottor De Stefani mi aiuta a ricordare che la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sul costo dei procedimenti di separazione e divorzio, che in passato erano esenti da ogni forma di tassa e imposta, parlo proprio dell'avvio del procedimento. Invece adesso è arrivato un balzello dal luglio scorso. Eh sì, il contributo unificato per le separazioni è fisso di 37 euro e salgono a 85 euro per le separazioni invece giudiziali. A che cosa serve questo contributo unificato, dottor De Stefani? Ma per in pratica si anticipa il pagamento di tutte le marche da bollo e i bolli, serve poi per iniziare la causa al tribunale. E prima non c'era questo balzello. Da 37 a 85 euro, per cui adesso non credo che possa rappresentare un grande deterrente, questo per scoraggiare separazioni franche, che dici, insomma, almeno col balzello iniziale si comincia, poi magari certo quando si cominciano a fare i conti dell'onorario dell'avvocato e di tutto quello che costa la separazione, forse però non bastano questi ragionamenti. Quali aspetti avete toccato in tutta la guida, Franca? Magari fammi un po' un piccolo monitoraggio per capire se anche gli ascoltatori trovano quello che serve loro, perché non riusciremo mai a rispondere a tutte le domande di stamattina. Ma diciamo che intanto c'è una parte procedurale, cioè che spiega, sia pure in sintesi, la differenza e come accedere alla separazione consensuale, giudiziale e più o meno insomma quali sono i costi, anche sia pur naturalmente molto generici, perché variano moltissimo da città a città, da avvocato a avvocato, insomma un conto se uno va dall'avvocato di grido oppure dal vicino di casa, insomma, no? E anche le cause, cioè per esempio una delle cose richieste più diffuse è l'infedeltà del coniuge, non fa sempre l'addebito, cioè la separazione non necessariamente avviene con addebito se il coniuge è infedele. questo è un retaggio di un modo di intendere la chiusura del matrimonio che è risalente nel tempo, ma adesso non è più così, specialmente ci sono fior di sentenze che dicono che in buona sostanza se la cosa era risaputa, diciamo, non c'è motivo di creare l'addebito. L'addebito è una cosa importante perché ha delle conseguenze anche economiche, ha delle conseguenze sulla, per esempio sull'eredità. Uh-huh. In questo dossier, fra le altre, e quindi diciamo ci sono una serie di informazioni di questo tipo, no? Compreso delle indicazioni per quanto riguarda la possibilità che il tribunale, anche qua poi ogni tribunale fa un po' a modo proprio, comunque la possibilità che vengano richiesti dei dati di reddito o di patrimonio per vedere veramente qual è la consistenza, diciamo, economica dei coniugi, mm-hmm, per stabilire poi gli assegni. Allora, guarda, ci fermiamo, Franca, perché abbiamo la nostra seconda pausa e questo è un tema molto gettonato anche nelle domande degli ascoltatori che aspettano di intervenire in diretta. Allora, Fernanda, dalla provincia di Milano, all'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Dunque, io parlo da suocera, ammetto. Chiaramente faccio una domanda che... di cui ha bisogno una risposta mia figlia. Certo. Data la separazione consensuale, la giudice ha stabilito una cifra per gli alimenti della bambina. Il marito si è fatto uccel di bosco e non versa assolutissimamente mai il mensile. Mm-hmm. Ora, come può fare mia figlia per avere un aiuto? In parte ho già capito che bisogna ritornare dal giudice, sì. E va bene. Però anche a sua volta il giudice dovrà trovare qualche strumento per obbligare il marito a questo mantenimento. Certo. Se questa persona dice di non lavorare, però non presenta nessun documento che possa dare, che possa permettere a mia figlia di avere delle agevolazioni, allora, dal momento che, per esempio, pagare, che so, la retta all'asilo, perché se non risultasse, diciamo, questa cosa, potrebbe avere delle agevolazioni, pagare un pochetto meno, eccetera. Invece così, quindi praticamente sua figlia risulta che riceve questo mantenimento, invece concretamente in effetti non lo riceve. Allora aspetti un po', Fernanda. Ho sentito che bisogna anche pagarci delle tasse, non vorrei che pure gli arrivasse. Certo. Allora, Fernanda, aspetti lì, avvocato Padalino. Tra l'altro, questa è una situazione emblematica che probabilmente rappresenta centinaia di situazioni sparse sul nostro territorio, una prassi purtroppo molto diffusa. Detto questo, visto che viviamo nel secolo dello spesometro, del redditometro, dell'anagrafe tributaria, ma è possibile che non possa dimostrare la figlia di Fernanda intanto che il marito non ottempera ai suoi doveri di mantenimento della figlia? Poi soprattutto un tribunale, il giudice alla quale questa donna potrebbe eventualmente rivolgersi di nuovo, quella che ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento, come può questo giudice andare a indagare nella situazione economica dell'uomo, appunto, che non rispetta quello che deve? Guardi, io lascerei stare il giudice, cioè qua è un problema dell'avvocato e della signora che deve recuperare questo credito, e quindi loro devono essere diligenti. Se il marito lavora, ha un'attività come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, e allora bisogna fare una serie di ricerche che iniziano dalle dichiarazioni dei redditi depositate presso l'Agenzia delle Entrate. Si può chiedere l'estratto conto assicurativo presso l'INPS per capire se ha lavorato e in che periodi, si può chiedere il modello CUD, si può chiedere per esempio se è pensionato o cedolini pensione, oppure se per caso ha avuto il decesso di un parente, acquisito l'eredità, si può chiedere all'Agenzia delle Entrate la denuncia successione, cioè cercare di andare a recuperare. Però siamo già ad un territorio lontano, diciamo, la cosa prioritaria che dovrebbe fare la figlia di Fernanda, la prima cosa. Ma la prima cosa sicuramente tramite il centro per l'impiego, capire se è un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo. Il centro per l'impiego può dare questi dati, non può evocare la privacy? No, dell'iscritto, perché sono dati economici, non sensibili, e soprattutto la tutela del credito di mantenimento supera qualunque eventuale tutela della riservatezza. Mm-hmm. Sulla base di questi dati si chiede al giudice di ordinare il pagamento. Nella peggiore delle ipotesi, che purtroppo accade, cioè quando uno dei coniugi si fa licenziare e formalmente non lavora, e allora in questo caso, se la figlia della signora non è in condizione da sola di mantenere il figlio, può chiedere di coinvolgere i nonni paterni, che hanno una responsabilità sussidiaria e devono garantire dei mezzi necessari per mantenere appunto i nipoti. Certo. Tornando alla preoccupazione che Fernanda aveva, siccome gli abbiamo spiegato all'inizio che l'assegno di mantenimento è tassato a carico di chi lo riceve, dottor De Stefani, perplessità assolutamente legittima da parte dell'ascoltatrice, addirittura rischia questa eventualità, in che maniera gli potrebbe essere tassata a sua figlia, che però non riceve questo denaro? Certo. Allora, la norma prevede che gli assegni dell'ex coniuge si presumono percepiti, quindi si presumono per legge percepiti, nella misura e alle scadenze indicate nella sentenza, quindi dovrebbe andare a tassarci, a pagarci le tasse sopra. Però in realtà è possibile dare una prova contraria, dimostrare documentalmente che questi assegni non sono stati percepiti. Cosa serve? Quali documenti possono essere utili per dimostrare questo in caso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nel caso appunto in cui non si vada a tassare questi assegni? Gli stati conti propri, ma anche quelli del coniuge, in cui risulta che non vi è stato il trasferimento di denaro tra le due parti. Oppure la cosa migliore sarebbe anche proprio il modello unico dell'ex coniuge, quello che ha erogato, che dovrebbe aver erogato l'assegno, dove si dimostra che lui non ha dedotto queste spese, che non ha pagato effettivamente. Non dovrebbe essere proprio particolarmente complicato, insomma, per questa persona dimostrare che suo marito non versa l'assegno regolarmente? Poi il tema è come può andare a rivendicare queste cifre da queste persone che spesso si fanno uccel di bosco. Beh, io sono rimasta abbastanza sorpresa, però mi pare che questa sia una prassi ricorrente, avvocato Padalino, che addirittura delle persone si facciano licenziare dalla propria azienda pur di rendersi in qualche maniera non rintracciabili dal fisco e quindi eventualmente anche dall'ex coniuge? Più che dal fisco, dall'ex coniuge. Purtroppo questi sono casi in cui si evidenzia la inidoneità genitoriale, perché il genitore che preferisce farsi licenziare, apparire nullatenente pur di non pagare il mantenimento per i figli, dimostra di non avere quella responsabilità nei confronti dei figli. E quindi questo, oltre all'aspetto economico, secondo me dovrebbe avere delle refluenze su quello che è l'affidamento e anche le scelte per i figli stessi. Certo. Però purtroppo sono casi che si verificano. Altro tema, faccio fare due domande molto sintetiche a Lorenzo da Roma e Pierluigi De Luca. Lorenzo, rapidissimo, grazie, ho capito il senso tra l'altro del suo intervento. Mi dica. Sì, niente, buongiorno, io chiamo da Civitavecchia, Roma. Niente, siccome io sono divorziato e sto pagando l'assegno di mantenimento a mia figlia, che peraltro neanche mi considera, volevo sapere fino a che età devo pagare questo assegno e anche so che lei lavora in nero, quindi... Quanti anni ha sua figlia, Lorenzo? Come, scusi? Quanti anni? 23 anni, grazie. Pierluigi Da Lucca, forse anche lei voleva fare la domanda dello stesso tipo, giusto? Più o meno sì. Fino a che età è obbligatorio versare il mantenimento del figlio? Avvocato Padalino, torno da lei. Fino a che non venga dimostrata, credo, l'indipendenza economica di questa persona, però chiaramente fino a 40 anni è inaccettabile che avvenga un mantenimento. No, fino a 40 anni non è. Anche previsto. 23 non è che sia, meno che questa ragazza non studi, però... Esatto, bisogna qua distinguere se è uno studente universitario e allora la giurisprudenza è di manica larga e tendenzialmente fino ai 30 anni garantisce il mantenimento, se invece non studia, lavora, e allora bisogna capire in base a quello che è la qualificazione professionale, se ha un diploma di ragioniera, se questo lavorare in nero significa che ha un reddito sufficiente, no, per le esigenze di vita, e quindi... Purtroppo però spesso si legge che uno stipendio part-time o comunque non pienamente in linea con la retribuzione mensile di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato non è sufficiente per cessare il mantenimento. Sì. Anche qua devo dire che sta al genitore, purtroppo, verificare quello che fa il figlio. che spesso non manifesta apertamente tutte le sue entrate. Entrano in campo tanti altri giochi, purtroppo, dei quali non ci interessa stamattina parlare, che però poi incidono anche nella valutazione appunto dell'assegno di mantenimento. Vabbè, abbiamo terminato stamattina, sicuramente abbiamo trattato il 10% di tutti gli argomenti che vorreste trattare. C'è la guida del Sole 24 Ore di questa mattina su questo argomento. Grazie a Franca De Ponti, all'avvocato Padalino, a Luca De Stefani. Scriveteci, vi risponderemo in privato. Nel frattempo, buona giornata a tutti.